Terzo anello. Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge L'educazione sentimentale di Gustave Flaubert. Traduzione di Giovanni Raboni. E così la signora d'Ambreuse conosceva la vita di Federico mentre lui non sapeva niente della sua. Aveva scoperto, è vero, nella sua toilette la miniatura di un signore dai lunghi mustacchi, che fosse la stessa persona di cui gli aveva raccontato un tempo una vaga storia di suicidio, ma non c'era assolutamente modo di saperne di più. E d'altra parte a che scopo? I cuori femminili assomigliano a quei mobiletti pieni di segreti, di cassettini nascosti uno dentro l'altro. Ci si affatica, ci si rompe le unghie e in fondo non si trova che qualche fiore secco, un po' di polvere o il vuoto magari. Inoltre, Federico aveva paura di venire a sapere qualcosa di troppo. Gli faceva rifiutare gli inviti ai quali non poteva recarsi insieme a lui. Gli stava alle costole, aveva paura di perderlo, ma nonostante questa unione ogni giorno più grande, a volte per motivi insignificanti, il giudizio su una persona o su un'opera d'arte, si spalancavano fra loro subitanei abissi. La signora d'Ambreuse suonava il pianoforte in un suo modo rigido e corretto. Il suo spiritualismo, credeva alla trasmigrazione delle anime negli astri, non le impediva di tenere i conti con ammirevole precisione. Trattava la gente con alterigia, i suoi occhi restavano asciutti alla vista dei poveri in brandelli. Dai suoi modi di dire abituali emergeva un elementare egoismo. «Cosa vuoi che me ne importi? Figurati se ne ho voglia. Che bisogno ne ho?» E c'era una quantità di piccoli gesti, tanto odiosi quanto difficili da analizzare. Era tipo da stare ad ascoltare dietro le porte. Probabilmente mentiva al suo confessore. L'spirito di possesso e di comando volle che Federico l'accompagnasse in chiesa la domenica. Obbedì e le teneva il libro da messa. La perdita dell'eredità l'aveva notevolmente cambiata. I segni di un dolore che la gente attribuiva alla morte di D'Ambreuse la rendevano interessante. Riceveva molto, come una volta. Dopo l'insuccesso elettorale di Federico, la sua aspirazione adesso era una missione diplomatica in Germania e la prima cosa da fare era sottomettersi alle idee dominanti. I conservatori ormai parlavano come Senecal. Federico non ci capiva più niente. Anche in casa della sua amante ritrovava gli stessi discorsi pronunciati dalle stesse persone. I salotti delle cortigiane, ed è proprio in quel periodo che è cominciata la loro importanza, erano un terreno neutro sul quale si incontravano reazionari di tutti i livelli. Ysonet, che passava il suo tempo a denigrare le glorie nazionali, cosa utilissima per la restaurazione dell'ordine, fece venir voglia a Rosanette di avere anche lei, come molte altre, le sue serate. Il giornalista ne avrebbe fatto i resoconti e cominciò col portarci una persona seria, Fumichon. Poi fecero la loro comparsa a Nonancourt, Grémonville, il signore di Larsiua, ex prefetto, e Sisi, agronomo e bretone adesso, e più cattolico che mai. Venivano anche alcuni ex amanti della marescialla, come il barone di Comin, il conte di Jumillac e qualche altro, che col loro fare disinvolto irritavano Federico. Per potersi atteggiare a padrone, decise di tirar su il tono della casa. Cambiarono appartamento, assunsero un valletto e presero dei mobili nuovi. La sua fortuna, intanto, diminuiva paurosamente, senza che Rosanette riuscisse a capirci niente. Nostalgica di una vita borghese, la marescialla adorava l'intimità domestica, gli ambienti piccoli e tranquilli. Era contenta, però, di avere il suo giorno. Parlando delle sue simili, le chiamava quelle donne. A furia di voler essere una signora di mondo, credeva di esserlo diventata. Pregò Federico di non fumare più in salotto e cercò, ritenendolo una cosa distinta, di fargli osservare i giorni di magro. Insomma, andava contro la sua parte. Diventava seria e prima d'andare a letto faceva persino mostra di un po' di malinconia, così come si mette qualche cipresso davanti alla porta di un'osteria. Federico ne intuì la causa. Sognava di sposarsi. Anche lei. La scoperta lo esasperò. Fra l'altro non aveva dimenticato la sua apparizione in casa di Madame Arnoux e le serbava inoltre un po' di rancore per avergli resistito così a lungo. Ciò nonostante, avrebbe voluto sapere quali erano stati i suoi amanti. Lei non ne ammetteva nessuno, fu preso allora da una sorta di gelosia. Gli facevano rabbia i regali che aveva ricevuto e quelli che riceveva. Man mano che cresceva la sua insofferenza verso la sostanza, il fondo della persona di lei, una sensualità acre e animalesca gliene aumentava il desiderio. Illusioni di un momento che si risolvevano in altrettanto odio. Tutto, le sue parole, la sua voce, il suo sorriso, cominciò a dispiacergli. I suoi sguardi, soprattutto, quell'occhio di donna eternamente limpido e insensato. Alle volte era talmente stufo che l'avrebbe vista morire senza un brivido di commozione. Ma come si faceva ad arrabbiarsi sul serio? La dolcezza di lei era scoraggiante. Si rifece vivo Delorier, giustificando la sua permanenza a Nogent con certe trattative per l'acquisto di uno studio. Federico fu felice di rivederlo. Almeno era qualcuno. E lo associò come terzo al loro ménage. L'avvocato veniva regolarmente a pranzare da loro e se c'era qualche piccolo litigio si schierava sempre dalla parte di Rosanette. Alla fine Federico gli disse «Vacci pure a letto, se ti fa piacere». Così forte era il suo desiderio di un caso che l'aiutasse a sbarazzarsi di lei. Verso metà giugno le notificarono un'ingiunzione con la quale Athanasio Gautheraud, ufficiale giudiziario, le intimava di pagare 4.000 franchi dovuti alla signorina Clemenza Vatnaz. In difetto, il giorno dopo avrebbe eseguito il pignoramento. In realtà, delle 4 cambiali firmate a suo tempo, una sola era stata pagata. Il denaro che le era passato per le mani dopo di allora era stato destinato ad altri bisogni. Si precipitò da Arnaud. Abitava adesso nel Faubourg Saint-Germain e il portinaio non sapeva la via. Fu da parecchi amici senza trovarne nessuno e tornò a casa disperata. A Federico non voleva dir niente, terrorizzata all'idea che questa storia potesse pregiudicare il suo matrimonio. L'indomani Athanasio Gautheraud comparve fiancheggiato da 2 accoliti. Tutti e 2 erano ignobilmente sporchi, avevano il colletto unto e le maniche della giacca troppo corte. Gautheraud terminò rapidamente le sue scritture, nominando custode degli oggetti pignorati la signorina Rosanette Bron, quindi si ritirò. Federico non disse una parola di rimprovero. Guardava sul tappeto le tracce fangose lasciate dalle scarpe dei praticanti e parlando fra sé, «Bisognerà cercare del denaro». «Ma che sciocca che sono!» esclamò la marescialla. Frugò in un cassetto, tirò fuori una lettera e si precipitò alla società dell'illuminazione della lingua d'oca per ottenere il trapasso delle azioni. Un'ora dopo era di ritorno. I titoli erano stati venduti a un altro. L'impiegato, esaminando la promessa scritta di Arnoux, le aveva risposto: «Questo documento non la rende in alcun modo proprietaria. La compagnia non può riconoscerlo». In breve, l'aveva gentilmente messa alla porta. Rosanette soffocava. Federico doveva andare immediatamente da Arnoux per chiarire la cosa. Ma Arnoux forse l'avrebbe creduto un modo indiretto per recuperare i 15.000 franchi della sua perduta ipoteca. E poi arrivare con una richiesta del genere da un uomo che era stato l'amico della sua amante gli sembrava una cosa vergognosa. Cercando una via di mezzo, si procurò a Palazzo d'Ambrese l'indirizzo della signora Reginbar, le mandò un fattorino e venne così a sapere quale fosse il locale frequentato al presente dal cittadino. Era un piccolo caffè in Place de la Bastille, dove Reginbar restava tutto il giorno nell'angolo di destra, sul fondo, senza fare più movimenti di una qualsiasi parte dell'arredo. Dopo essere passato via via attraverso la mezza caraffa, il grog, il vino con lo zucchero e limone, il vin caldo e persino l'acquetta tinta, era tornato alla birra e ogni mezz'ora lasciava cadere una sola parola. «Boccale!» dato che il suo linguaggio si era ridotto al puro necessario. Federico gli chiese se vedeva Arnoux qualche volta. «No». «Oh belle, perché?» «È un imbecille. Forse era la politica a separarli». Dopo un lungo silenzio, Federico riprese. «Allora, ha cambiato casa?» «Chi?» «Arnoux!» «Esatto, Rue de Fleurus». «Numero?» «Non frequento i gesuiti». «Perché gesuiti?» Il cittadino si arrabbiò. «Coi denari d'un patriota che gli avevo presentato, quel porco si è messo nel commercio delle corone da rosario». «Possibile». «Vada a vedere». Niente di più vero. Arnoux, indebolito da un colpo, s'era avvicinato alla religione. D'altra parte aveva sempre avuto un fondo religioso e con quel misto di ingenuità e di affarismo che gli era proprio si era dedicato al commercio di articoli religiosi per salvare insieme la sua anima e se stesso. Federico non fece fatica a scoprire il suo negozio, la cui insegna recava arte gotica, restaurazione del culto, ornamenti per chiese, sculture policrome, incenso dei re magi, eccetera, eccetera. Ai due lati della vetrina sorgevano due statue di legno decorate in oro, cinabro e azzurro, un San Giovanni Battista con la sua brava pelle di pecora e una Santa Genoveffa col grembiule colmo di rose e un fuso sotto il braccio. Dalla vetrina vedeva che Arnoux sonnecchiava dietro al banco con la testa sul petto. Era incredibilmente invecchiato. Intorno alle tempie, illuminate dai riflessi del sole in tutte le croci dorate che lo circondavano, aveva una corona di piccole escrescenze rosa. Quello spettacolo di decadenza riempì di tristezza Federico. Per amore della marescialla, tuttavia, era deciso a farsi avanti quando dal fondo del negozio comparve Madame Arnoux. Allora girò sui tacchi e se ne andò. «Non l'ho trovato», disse rientrando in casa. Ebbe un bel dire che avrebbe scritto subito alle Havre, al suo notaio, per farsi mandare del denaro. Rosanette si infuriò. Non si poteva immaginare un uomo più debole, più molle. Mentre le altre se la spassavano, lei doveva privarsi di tutto. Federico pensava a Madame Arnoux, poverina, alla straziante mediocrità dell'ambiente in cui viveva. S'era messo al suo scrittoio e siccome Rosanette non la smetteva con la sua voce acre, «In nome del cielo, sta zitta! Vorresti difenderli per caso?» «Sì», gridò Federico. «Si può sapere il perché di tanto accanimento. E tu? Si può sapere perché non vuoi che paghino? È per paura di far dispiacere alla tua ex, confessalo!» Gli mancarono le parole. Per un attimo pensò di ammazzarla con la pendola. Non disse niente. Rosanette, misurando avanti e indietro la stanza, aggiunse: «Gli pianto una bella causa io al tuo Arnoux. Sta tranquillo, non ho bisogno di te!» E stringendo le labbra, «Mi consulterò!» Tre giorni dopo, Delfina entrò bruscamente. «Signora, signora, c'è di là un uomo con un vaso di colla che mi fa paura!» Passata in cucina, Rosanette vide una specie di bandito con la faccia crivellata dal vaiolo, paralitico d'un braccio, ubriaco per tre quarti e balbuziente. Era l'attacchino incaricato da Gautereau. L'opposizione al pignoramento era stata respinta e l'esproprio seguiva il suo corso normale. Come compenso per la fatica d'aver salito le scale, l'attacchino cominciò col reclamare un bicchierino. Poi, credendo che la signora fosse attrice, implorò come ulteriore piacere qualche biglietto per il teatro. In seguito passò diversi minuti a fare incomprensibili strizzate d'occhio e alla fine si decise a spiegare che dietro versamento di 40 soldi era disposto a strappare gli angoli dell'avviso già appiccicato in basso sul portone. Rosanette vi era designata con nome e cognome, misura di eccezionale rigore che dimostrava tutto il risentimento della Vatnaz. La signorina era stata un tempo una donna sensibile, ma le burrasche della vita l'avevano inacidita. Era stata via via maestra di pianoforte, direttrice di una pensione, collaboratrice di giornali di moda, affittacamere, venditrice di pizzi nel giro delle donnine. Durante quest'ultima attività le sue relazioni le avevano consentito di fare dei favori a parecchie persone, ad Arnoux fra gli altri. In precedenza aveva lavorato in una ditta commerciale dove aveva chiamato ad aiutarla Dussardier. Poco alla volta era stata presa da amore per quel ragazzo così leale, dolce, eroico, coraggioso. Alla sua età una fortuna simile era qualcosa di insperato. Vi si gettò sopra con una voracità da orco e aveva finito a causa sua per abbandonare la letteratura, il socialismo, le consolanti dottrine e le utopie generose, i corsi sull'emancipazione della donna, tutto insomma, persino del mar. Per concludere, aveva proposto a Dussardier di unirsi in matrimonio. Pur essendone l'amante, il commesso non era affatto innamorato di lei. Era troppo ricca, rifiutò. Allora lei gli disse, fra le lacrime, qual era stato il suo sogno, aprire un negozio di confezioni, loro due insieme. Lei aveva i fondi indispensabili per cominciare, nel giro di una settimana poi sarebbero aumentati di 4.000 franchi, e gli raccontò l'azione intrapresa contro la marescialla. Dussardier ci rimase molto male per via del suo amico. Non poteva dimenticare il portasigari lasciatogli al corpo di guardia, le serate del Quai Napoleon, tutti i simpatici discorsi, i libri prestati, le 1.000 gentilezze di Federico, e pregò la Vatnaz di desistere. Lei lo prese in giro per la sua ingenua bontà, manifestando nei confronti di Rosanette un odio inesplicabile. Se desiderava diventare ricca, era solo per poterla schiacciare un giorno con la sua carrozza. Questi neri abissi di cattiveria spaventarono Dussardier. Quando seppe con certezza il giorno fissato per la vendita, uscì di casa. L'indomani mattina si presentava Federico con un'aria imbarazzata. «Ti devo delle scuse. E perché mai? Di certo mi prenderai per un ingrato. Lei è...» e balbettava. «Ma io non la vedrò più. Non voglio essere il suo complice». L'altro lo guardava sbalordito. «Non è forse vero che fra tre giorni venderanno i mobili della tua amica? Chi te l'ha detto?» «Ma lei, la Vatnaz! Solo che ho paura di offenderti». «Questo non è possibile, caro amico». «Ah, sì, è vero, tu sei così buono». E gli tese con un gesto discreto un piccolo portafogli di pelle. Erano 4.000 franchi, tutti i suoi risparmi. «Cosa? Oh, no, no, no, no. Ecco, lo sapevo che ti avrei ferito», rispose Dussardier con le lacrime agli occhi. Federico gli strinse la mano e il bravo ragazzo riprese con voce afflitta. «Accettali, fammi questo piacere. Sono talmente disperato. Dimmi, non ti sembra che sia tutto finito ormai? Quando è venuta la rivoluzione io credevo che saremmo stati felici. Ti ricordi com'era bello, come si respirava bene? Ma adesso eccoci ricaduti più in basso di prima. E fissando il pavimento, stanno uccidendo la nostra Repubblica come hanno ucciso l'altra. La romana, e quella povera Venezia, e la Polonia, l'Ungheria, che abominio. Hanno cominciato buttando giù gli alberi della libertà, poi hanno limitato il diritto di voto, chiusi i circoli, rimessa la censura, affidato l'insegnamento ai preti in attesa dell'Inquisizione. Già, perché no? Ci sono dei conservatori che ci augurano i cosacchi. I giornali che protestano contro la pena di morte vengono condannati. Parigi è piena zeppa di baionette. 16 dipartimenti sono in stato d'assedio e l'amnistia è stata rifiutata ancora una volta. Si prese la testa fra le mani, poi, allargando le braccia come in un irresistibile impeto d'angoscia, eppure, se si tentasse di far qualcosa, se si fosse tutti in buona fede, ci si potrebbe capire. E invece no, gli operai non valgono più dei borghesi, lo vedi bene. A Elbeuf, recentemente, si sono rifiutati di dare il loro aiuto in un incendio. Ci sono dei miserabili che trattano Barbès da aristocratico. Vorrebbero Nadeau alla presidenza, un muratore, figuriamoci. Sembra che facciano apposta perché ci si burli del popolo. E non c'è niente da fare. Non esistono rimedi. Tutti ci sono contro. Io di male non ne ho mai fatto nessuno. Eppure è come se avessi qualcosa che mi pesa sullo stomaco. Se si continua così divento matto. Ho voglia di farmi ammazzare. Dei miei soldi non ne ho bisogno, ti dico. Me li renderai, che diamine. Voglio solo prestarteli. Stretto dalla necessità, Federico finì con l'accettare i 4.000 franchi. Dal lato Vatnaz, così, non c'era più motivo di inquietudine. Ma Rosanette, persa rapidamente la causa contro Arnoux, si intestardì a ricorrere in appello. Delorier s'affaticava a farle capire che la promessa di Arnoux non costituiva né una donazione né un regolare atto di cessione. Lei non stava neanche a sentire. Trovava ingiusta la legge, si capisce. Lei era una donna, gli uomini facevano lega fra loro. Alla fine, però, s'arrese ai suoi consigli. Anna Bonaiuto ha letto L'educazione sentimentale di Gustave Flaubert, riduzione di Giovanni Piccioni, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello, @rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.